Approfitto per darvi un caloroso benvenuto in questa nuova cornice che abbiamo già potuto utilizzare quest'autunno, lo scorso autunno, in occasione della presentazione del romanzo Il Cecchino e che possiamo riutilizzare questa volta grazie alla collaborazione del Liceo Classico, in particolar modo del preside professor Pedevilla. Siamo appunto vicini, visto che la biblioteca in fin dei conti è a distante da questo, diciamo, edificio solamente qualche centinaio di metri, però è chiaro che cambiare ogni volta la location non è sempre facile. In questo periodo la biblioteca infatti organizza i propri incontri eventualmente o al Cristallo in via del Mazia o al Centro Trevi e a volte appunto anche al Liceo Classico. Siamo contenti perché in particolar modo questa sera viene presentata una tesi di laurea di Silvia Ferrazzoli, che è qui con me, che saluto. Buonasera a tutti. Ecco, e fa parte di un gruppo di tesi di laurea che sono state premiate nel 2014. La Biblioteca Provinciale, infatti, dal 2004 ha deciso di costruire la propria collezione bibliografica anche raccogliendo materiale grigio, cosiddetta letteratura grigia, appunto tesi di laurea, tesi di ricerca, documenti di carattere scientifico, ma che non sono particolarmente reperibili attraverso i canali tradizionali, ma devono essere richiesti direttamente all'autore, a meno che poi non ne nasca una pubblicazione ufficiale. Le tesi di laurea sono un'importantissima fonte di informazioni aggiornatissime di alto livello, oltre che di una ricchissima bibliografia che a noi serve anche come aggiornamento per le nostre collezioni. Così, insomma, da 10 anni la biblioteca organizza questo premio, fa un bando che parte di solito in aprile, anzi ne approfitto subito che per diffondere la notizia che se qualcuno conoscesse degli studenti in procinto di laurearsi in qualsiasi disciplina, l'importante è che poi la ricerca sia in qualche modo collegabile al nostro territorio, possono presentare poi il lavoro alla biblioteca provinciale. Ecco, possono mettersi in contatto con noi e partecipare al famoso tra virgolette premio Claudio Busta, che però ogni anno alla fine porta alla biblioteca sempre una trentina di nuove tesi. 30 tesi sull'Alto Adige ogni anno non è proprio così scontato, ecco, riuscire ad averle, e quindi per noi è sempre una fonte di arricchimento. Per entrare invece nel vivo della nostra serata, ringrazio Silvia Ferrazzoli, che non è un'altoatesina, ecco, questo è anche un aspetto molto particolare che emerge ogni anno in occasione di questo concorso, perché tanti studenti sono del territorio, appartengono, sono originari dell'Alto Adige o del vicino Trentino, però c'è sempre qualcuno che proviene da altre regioni d'Italia che riesce e si appassiona delle tematiche, come è stato il caso di Silvia Ferrazzoli, che si è appassionata alla tematica della toponomastica e quindi ha fatto una ricerca che stasera ci presenterà, la toponomastica altoatesina, vicende storiche e sociolinguistiche. Bene, la toponomastica per noi non è un tema nuovo, devo ammetterlo, ecco, è un tema molto dibattuto, emerge periodicamente anche in certe occasioni molto precise della vita sociale e comune, insomma, di noi altoatesini. Ci caratterizza, ci connota, ecco, anche questo aspetto della, così, sociale, culturale e linguistico, ed è anche spesso un tema molto caldo da prendere con le pinze. È stato anche spesso dibattuto se utilizzare termini come macro e micro toponomastica per un po' diluire alcune argomentazioni, alcune tematiche, però insomma resta che il fatto che è un argomento che non è che ci riguardi esclusivamente, ma che poi appunto anche in altre regioni, in tutti i territori, c'è questa necessità di ricostruire le origini dei nomi, dei luoghi, di costruire una storia, di vederli, di conoscerli da un punto di vista anche linguistico, la loro evoluzione, e quindi ogni nome ha una storia molto affascinante. Figuriamoci in un posto come il nostro, terra di confine, dove si incrociano parecchi idiomi che hanno avuto delle evoluzioni differenti, con delle storie anche affascinanti da questo punto di vista. Penso anche alle comunità ladine e a quello che possono rappresentare da un punto di vista glottologico queste comunità. E quindi, insomma, ci lasciamo un po' questa sera accompagnare in questo percorso dalla nostra ospite, per vedere anche come, e attraverso uno studio scientifico a livello universitario, però con gli occhi di una persona che non abita qui e che quindi forse è rimasta meno coinvolta da un punto di vista emotivo ed emozionale, ci può raccontare qualcosa che ci riguarda. A lei la parola. Grazie dottoressa Trevisan per questa bellissima presentazione, e in particolar modo grazie per avermi dato l'opportunità di raccogliere i frutti di questo lavoro che mi è costato sacrifici, impegno nei mesi in cui ho dovuto realizzarlo, però anche una grande soddisfazione quando ho ricevuto la lettera con su scritto che ero la vincitrice del premio Claudio Augusta per l'anno 2014. In particolar modo però ringrazio voi presenti, perché questa sera mi consentite di condividere con voi questo lavoro e quello che ho imparato dell'Alto Adige Sud Tirol nei mesi in cui ho dovuto impegnarmi per realizzarlo. Il titolo di questo mio lavoro è La toponomastica altoatesina, vicende storiche e sociolinguistiche. E ciò che ho fatto è analizzare dapprima la storia dell'Alto Adige e poi tutte quelle peculiarità linguistiche che hanno caratterizzato questa zona e che trovano maggiore espressione nella toponomastica, ovvero nei nomi di luogo. L'indice del mio lavoro è stato il seguente, quindi ho fatto una presentazione dell'area altoatesina, ho poi sintetizzato la storia in tre fasce che sono dai Romani alla Prima Guerra Mondiale, da Ettore Tolomei, quindi dal ventennio fascista, sino all'accordo De Gasperi-Gruber, siamo circa negli anni 50, forse voi sapete meglio di me, conoscete anzi sicuramente meglio di me la storia di questa regione. E poi l'ultima fascia in cui ho cercato di sintetizzare le vicende storiche è quella che va dallo Statuto Speciale, quindi siamo sempre negli anni 50-60, sino ai giorni nostri, in particolar modo sino all'evoluzione che abbiamo avuto nell'Euroregio, quindi questa grande regione che si inserisce in un contesto più ampio quale è l'Europa. Ho poi analizzato il bilinguismo, quindi questo contatto linguistico tra il tedesco e l'italiano, poi la presenza anche della minoranza tedesca in Alto Adige Sud Tirol ed in particolar modo dei dialetti germanici, dove per dialetti germanici intendo quelle minoranze linguistiche che hanno sia stampo di matrice bavarese sia i dialetti del vicino Tirolo. E poi una piccola analisi anche del ladino, quell'idioma locale di stampo romanzo che è maggiormente presente in alcune vallate di questa regione. Ho poi approfondito il mio lavoro, e questo è il fulcro del mio lavoro, ponendo in analisi 20 comuni altoatesini. Oggi ne vedremo unicamente circa una diecina, quelli più importanti e anche i più curiosi secondo me. Analizzando quindi la storia di questi comuni e in particolar modo la loro etimologia. Però per analizzare questo mi è stato necessario approfondire tutto ciò che è avvenuto in questo paese, quindi sia a livello storico che a livello sociolinguistico. Allora, questa è la vostra regione ed in particolar modo ciò che ha caratterizzato questa regione è stato un insediamento di popolazioni. In particolar modo ho studiato come i Liguri si siano prettamente insediati in questo territorio, e parlo di popolazioni pre-indoeuropee, ovvero di popolazioni che hanno preceduto i Romani, quindi parliamo di numerosi secoli avanti Cristo. Quando queste popolazioni erano su questo territorio, hanno quindi importato anche la loro lingua, e a ciò si va a sovrapporre, quindi dobbiamo immaginarci come un insediamento di stirpi preindoeuropei con particolare riguardo a quelli che erano i Liguri. A ciò si va a sovrapporre il sostrato romano, perché nel primo secolo d.C. abbiamo l'invasione romana voluta dall'imperatore, dal noto imperatore Augusto, e quindi abbiamo a questo sostrato preindoeuropeo la lingua latina. E troviamo espressione di ciò in quella rete stradale che i romani, sappiamo, erano soliti voler costruire, reti stradali, che è la via Claudia Augusta. Qui abbiamo anche l'immagine di un cippo miliare famoso, e, ovvero quella strada che Augusto voleva venisse, che unisse la penisola italica alla Augusta Vindelicum, ovvero all'attuale città di Augsburg, nella vicina Baviera. Quindi già nell'epoca romana possiamo notare come vi sia una volontà imperiale, quindi una volontà politica, di creare un ponte tra la civiltà italica e la civiltà germanica. Quindi vediamo che questa regione è sempre stata contesa tra le due fazioni. Motivo per cui la nostra biblioteca ha scelto questo nome. È già. Poi vedremo che quindi cade l'impero romano e con l'avvicendarsi dei secoli subentrano due maggiori fattori storici. Questi eventi sono, li possiamo sintetizzare così, il dominio dei conti del Tirolo, quindi si tratta di un dominio asburgico, quindi Asburgo uguale lingua tedesca, quindi a questa volta al sostrato latino si va a sovrapporre la lingua germanica, più che altro, in particolar modo tirolese. Quindi abbiamo un incremento della tedescofonia, come possiamo vedere, e a questa tedescofonia, a partire dal XVII secolo, ma ancor più a partire dai primi anni, dal ventennio fascista, quindi dal regime fascista all'inizio del Novecento, abbiamo una imposizione, così potremmo definirla, dell'italofonia. Quindi viene in un certo qual senso limitata la diffusione del tedesco in queste zone. Però non è sempre la politica a governare i parlanti, quindi troviamo sempre la coesistenza di questi due ceppi linguistici, quello italiano e quello tedesco. Poi ci sono ulteriori vicende storiche che, come dicevo prima, voi conoscete meglio di me, e non mi va assolutamente di annoiarvi con statuto di autonomia, eccetera. Nonostante per me non sia stato semplice, perché a Roma ho trovato numerosi libri in cui erano spiegate tutte le procedure, e in particolar modo è stato spiegato molto bene come la burocrazia italiana ha portato dei ritardi all'attuazione dello statuto di autonomia e quindi anche alla tutela del bilinguismo. Però non mi va assolutamente di annoiarvi, anzi rendiamo la cosa più interessante. A livello sociolinguistico troviamo la coesistenza di sostanzialmente tre gruppi linguistici che, grazie al censimento, e qui appunto cito la fonte come fonte l'Istat del 2011, vediamo come il gruppo tedesco si aggira attorno al circa il 70% della popolazione, e qui parlo del bilinguismo unicamente nella provincia autonoma di Bolzano, mentre il ceppo italiano raggiunge circa il 30%, quindi vediamo come il tedesco imperi di più rispetto a quello italiano. E poi abbiamo sempre la minoranza ladina, che qui si aggira attorno al 5%. Quindi con il termine di bilinguismo in glottologia si intende la presenza, o meglio la compresenza, di due codici linguistici che sono entrambi ufficiali, perché entrambi riconosciuti a livello legislativo dallo Stato, e aventi pari dignità. Quindi si presuppone che anche tra i parlanti vi sia una sorta di civiltà reciproca, cioè ogni ogni parlante di un determinato codice linguistico dovrebbe accettare l'alterità degli altri parlanti. I toponimi, questo è appunto, come dicevo prima, il nucleo del mio lavoro. Toponomastica in italiano e Ortsnamenkunde in tedesco è quel settore dell'onomastica, dove per onomastica intendo la scienza dei nomi, che ha per oggetto lo studio dei nomi di luogo, quindi i cosiddetti toponimi. È una parola che deriva dal greco topos, che sta a significare luogo, e nomos, che è nome. Si analizzano i toponimi mediante un metodo storico-filologico, dove per storico intendo, appunto come ho fatto anche io per il mio lavoro, l'analisi di tutte le vicissitudini storiche che hanno caratterizzato una determinata città o una determinata area, a seconda di ciò che si vuole studiare e di ciò che si vuole analizzare. Per filologico intendo una cosa un po' più complicata, perché consiste nel cercare di risalire all'origine di un determinato nome, comparando tutte quelle lingue che si sono sviluppate in quell'area che stiamo analizzando. Vedremo difatti che per alcuni toponimi abbiamo nomi con una radice tedesca oppure una radice latina. Altre volte vediamo invece che si parla di radici indoeuropee, quindi andiamo di molti secoli indietro nella storia. Nella seconda metà dell'Ottocento i principali glottologi che hanno iniziato a studiare questi nomi di luogo sono, grazie a Dio, Isaia Ascoli, Dante Olivieri, Carlo Battisti e Giovan Battista Pellegrini. Ed in particolar modo è Giovan Battista Pellegrini che apporta un notevole aiuto a quello che è lo studio dei nomi di luogo altoatesini. Infatti gran parte dei testi da me reperiti sono appunto firmati Pellegrini. Appiano sulla strada del vino è uno dei toponimi da me studiati, e per ogni nome di luogo vedrete alla fine italiano Deutsch, ovvero sta a significare se la prima attestazione di questo nome di luogo è italiana o tedesca. Quindi è una sorta di sintesi anche per facilitarvi la comprensione. Per quanto riguarda Piano sulla strada del vino, Eppan an der Weinstraße, si pensa che l'origine di questo nome sia Appianum, che deriva da un nome di persona romano che è Appius o Appianus. E questa parola Appianum è stata attestata, quindi è stata scritta da Paolo Diacono nella sua Storia dei Longobardi, un testo del VI secolo d.C. Nel XII secolo, in altri testi, è stata rinvenuta la parola Eban e poi Apiano. Spesso in linguistica la B diventa P o viceversa, quindi è un'evoluzione filologica. E nel 1973 troviamo l'attestazione completa di Appiano sulla strada del vino, e in tedesco Eppan an den Weinstraße. Quindi riconduciamo questo nome ad un termine latino, quindi Appius o Appianus, e pertanto ad un termine di matrice italica. Perciò da Appiano passiamo ad Eppan. Abelengo Afling è un altro dei nomi da me analizzati, e qui invece ci poniamo in una situazione diversa, perché questa volta è da un nome di matrice germanica che giungiamo ad un nome in lingua italiana. Quindi nel XII secolo rinveniamo la parola Afningen o Aviningo, che si pensa derivi da Afele, che è diminutivo di Af, Maso. E in questo caso si pensa sostanzialmente che il nome di luogo venga dato in base a determinate abitazioni che sono presenti in una determinata area. Quindi è curioso, secondo me, vedere che ogni toponimo ha la sua storia, sì, ma anche le sue piccole particolarità, ed è proprio da quelle particolarità che poi diventa un nome di un determinato paese o, come per Bolzano, di una città. Negli anni 20 del Novecento troviamo un toponimo creato in maniera nuova, ed in particolar modo questa volta Avelengo viene creato su base di quanto abbiamo già in tedesco, ovvero Afningen. Se avete domande, ponetele tranquillamente, eventualmente. Badia, Abtai, qui troviamo una traduzione letterale dal tedesco all'italiano. Tra il XII e, anzi, a partire dal XII sino al XVIII secolo, rinveniamo la forma Abtai o Abtai, quindi B, vediamo che non è che cambia la sostanza di questo nome, come valeva anche per Eppan o Ebban. Il nome a questo paese viene dato perché il controllo di quest'area era gestita dal convento benedettino, quindi parliamo di un'abbazia, perciò Abtai, di Castelbadia San Lorenzo di Sebato. Quindi qui vediamo come il controllo del principe vescovo che dà poi il nome al paese. A partire dal XV secolo, ma a partire in particolar modo dal Rinascimento, vediamo come invece in italiano troviamo abbazia, che poi diventa abbatia, poi abbadia, poi abbiamo la perdita del prefisso ab e resta unicamente badia, accanto al lemma tedesco che già avevamo attestato. Arriviamo alla nostra città. Eccoci qua, Bolzano, che presenta due ipotesi, quindi qui non abbiamo, ovviamente quando parliamo di toponimi e dell'analisi dei toponimi parliamo sempre di probabilità. E per quanto riguarda Bolzano, allora ci sono due probabilità. Secondo una prima ipotesi, il termine Bolzano deriva da Baudius o Baudius, e anche in questo caso a livello linguistico l'alternanza di T con D è frequente in epoca latina in particolare. Quindi Baudius, che significava in latino Baudio, ovvero era un nome di persona, è attestato nella parola Praedium Bautianum o Praedium Baudianum, che sta a significare podere, quindi proprietà di Baudio. E vedremo che poi questa peculiarità di associare la proprietà di determinate terre ad un soggetto e poi da questo soggetto il nome di questo soggetto lo ritroveremo poi nel nome del nucleo urbano, è ricorrente anche in altri nomi di luogo, ad esempio in Sterzing Bipiteno, in particolar modo in Sterzing, ma questo lo vedremo poi in seguito. Quindi, secondo una prima ipotesi, Bolzano deriva da potere di Baudius. Secondo una per quanto riguarda la seconda ipotesi, il termine Bolzano, Bozen, deriverebbe da un ipotetico Castellum Balteanum, che era un accampamento su terreno paludoso, e il fatto che si tratti di un terreno paludoso ce lo riferisce la radice indoeuropea Balt, che è nota anche dal Baltico, quindi si tratta di terre umide, di comunque terre che hanno sempre un'associazione ad un ambiente acquitrinoso o comunque con umidità. quindi o potere di proprietà di un certo baudio, oppure accampamento, quindi una zona dove vi erano determinate abitazioni che erano disposte su un terreno umido. Quindi questa volta è il lemma con radice latina, quindi appunto scritto italiano, che dà vita poi alla traduzione Bosen tedesca. Brennero, anche questo nome presenta due ipotesi. Potrebbe derivare dalla popolazione preromana dei Breuni, quindi vediamo come questi romani hanno lasciato la loro impronta sia a livello storico ma anche a livello linguistico. I Breuni, che sono citati anche nell'opera, sempre nella storia dei Longobardi di Paolo Diacono, come Briones. Oppure, per quanto riguarda la seconda ipotesi, il termine Brennero deriverebbe da Mitternwalde Prennerius, quindi sempre da un nome di persona che è attestato in un'opera del XIII secolo. Quindi si tratta sempre di proprietà associate ad un determinato soggetto. Quindi qui Prennerius, Prenner, Brennero. Anche qui vediamo appunto come l'alternanza di P con B risulta frequente. Questo è un documento che c'è all'archivio di Stato. Sì, ecco, a Roma non c'era purtroppo. Se fossi stata a Bolzano sicuramente avrei fatto... In pergamena, bello. Sì, avrei fatto un'indagine più approfondita. Quindi per quanto riguarda questo caso vediamo come è la radice italica che dà poi vita al termine tedesco, Brenner. Un altro paese che è localizzato sempre sulla strada del vino, e vediamo sempre come la locuzione strada del vino venga aggiunta in quello che è il dopoguerra. Qui nel 1964 invece a piano sulla strada del vino, lì sulla strada del vino è stato aggiunto circa negli anni 70, come abbiamo visto prima. Caldaro quindi nel IX secolo è attestato come Caldare, Caldar, Caldarium. Si tratta sempre di nomi latini ed in particolar modo si pensa che questo toponimo derivi dal latino Cardaria o Caldaia e fa riferimento alla condizione geofisica di quest'area, perché appunto calda e calda. E qui vediamo appunto com'è il termine italiano, caldaro, che dà poi vita a Caltern. Però vediamo che non vi è una corrispondenza sempre precisa tra parola italiana e parola tedesca. Certe volte ciascuna delle due parole evolve col proprio significato e nella propria storia. Altre volte invece vi è un'associazione. In questo caso l'associazione non è presente. Dobbiaco, Toblac, anche qui abbiamo due ipotesi. In un primo luogo è attestata nel X secolo questa parola come Duplago, che si pensa possa derivare dalla radice preromana Tob, che significa burrone. E anche qui abbiamo una radice linguistica che fa riferimento alla condizione geografica, in questo caso, del nucleo urbano, perché si fa riferimento alla collocazione nella Valpusteria. Secondo, invece, un'altra ipotesi, la parola potrebbe derivare da Duplagum, ma vediamo che si tratta sempre di parole latine, e fa riferimento ai due laghi che sono presenti nelle vicinanze, ovvero al lago di Dobbiaco e al lago di Landro. E in questo caso è sempre la parola latina che dà poi origine, e in questo caso si tratta di una facile comprensione linguistica, perché abbiamo quindi l'evoluzione di Dobbiaco in T nel tedesco, e poi anche a livello suffissale vi è comunque sia una semplificazione. Quindi qui vi è corrispondenza tra parola italiana e parola tedesca. Questo è stato il nome di luogo più curioso secondo me, perché qui vediamo come l'evoluzione linguistica, ma soprattutto l'evoluzione storica, è differente. Perché per quanto riguarda il termine tedesco, per quanto riguarda il termine italiano, Egna si pensa che possa derivare da una mansio endide, ovvero da una stazione di posta, quindi da una da una stazione che i romani avevano localizzato sulla via Claudio Augusta, che come ho detto prima era quindi la strada che si dirigeva verso l'attuale Germania. Se posso intervenire, così mi inserisco ogni tanto nel discorso, e i resti di questa mansio sono visitabili, e sono stati recuperati, sono stati fatti degli scavi, e quindi chi avesse piacere può recarsi a Egna e prendere visione di questo scavo archeologico che è stato riguadagnato ed è assolutamente godibile, fruibile, con tanto di spiegazione. Sì, quindi ci sono dei documenti archeologici anche in questo senso. Mentre per quanto riguarda Neumarkt, Neumarkt è la traduzione letterale di Novum Forum, perché questa piccola cittadina, a seguito di un incendio, non ha cambiato unicamente il suo volto urbano, ma ha cambiato anche il suo toponimo, perché il suo nome quindi, perché è stata rinominata non più Endide, che poi è evoluta a seguito di numerosi mutamenti ad Egna, ma è stata chiamata Novum Forum, ovvero nuovo mercato, che tradotto in tedesco Neumarkt. Quindi qui vediamo come abbiamo due evoluzioni correlate, sì, ma al contempo differenti. Merano invece è quella un po' più articolata, perché presenta tre ipotesi che sono, come vediamo, differenti tra loro, molto differenti tra loro. In primo luogo abbiamo l'attestazione nel IX secolo della parola Mairana, che sta a significare terra Mairana, dove con Mairana intendiamo un determinato lotto che è appartenente ad una fattoria padronale bavarese, quindi a quella cosiddetta Maiora in latino o Maierhof in tedesco. E qui, a seguito di un'evoluzione linguistica, giungiamo al termine Meran. In secondo luogo, invece, ci sono altri studiosi secondo i quali il termine Merano deriva da Marianum, ovvero proprietà di Mario, quindi come abbiamo visto prima per l'altro toponimo si tratta di un'associazione tra un soggetto che è proprietario di alcune terre in quell'area. Invece, per quanto riguarda la terza ipotesi, alcuni studiosi fanno risalire il nome Merano Meran a Mara, che significa zona di detriti, quindi anche qui abbiamo sempre un accostamento all'ambito geografico, quindi a quali sono gli elementi che vanno a caratterizzare una determinata area. Vorrei inserirmi, così rendiamo un po' più dialogico, se non ti dispiace, perché la settimana scorsa abbiamo presentato come biblioteca un libro che racconta delle leggende, raccoglie anzi delle leggende meranesi, scritto da Paolo Valente, un giornalista che si occupa anche di storia, altoatesino, originario di Merano, e ha riportato in questo libro anche una leggenda che parla del mare a Merano, e che quindi questa leggenda vorrebbe, chiaramente in termini non storici, non glottologici, neanche linguistici, ma in un certo senso così, vorrebbe giustificare una forzata derivazione del nome Merano da Mer, che in tedesco significa appunto mare. Tutto sommato forse non è neanche così campato per aria, pensando alle origini geologiche o comunque a quello che è stato il passato geologico del nostro territorio, dove le Dolomiti sono una chiara ed evidente testimonianza che qui il mare c'era e verosimilmente sarà arrivato anche fino a Merano. Se poi c'è anche un'ipotesi che parla di morene, di detriti, potrebbe essere un'ulteriore conferma. Sì. Un'altra cosa che volevo aggiungere, forse anche il pubblico ne ha conoscenza perché spesso nei libri viene riportato, anche nei nostri libri pubblicati sul territorio, Merano ha due zone residenziali, una è Maia Alta e una è Maia Bassa, che vengono ricollocate come, da un punto di vista storico e linguistico, come le origini del nome di Merano, perché probabilmente Merano, una delle ipotesi che viene citata spesso, era un accampamento militare romano e soprattutto aveva come nome, toponimo, Maia, Castra Maiense. Adesso poi la documentazione da cui si estrapola è difficile anche da ricostruire, però c'è questa forte anche così volontà di individuare nella radice di Maia, che poi è sopravvissuta, un'origine, anche una delle ipotetiche origini del nome di Merano. Grazie. Sì, poi si tratta sempre di ipotesi, perché esatto. Spesso abbiamo una ipotesi univoca, quindi un'unica soluzione che gli studiosi ci propongono, però spesso ognuno dice no, secondo me deriva da questo, perché sempre sui testi è stato probabilmente attestato in maniera differente. Quindi poi ciascuno fa la propria analisi linguistica, ma sempre, e ribadisco sempre, basandosi sui testi scritti, quindi testi antichi storici. Certo. Stiamo facendo più di confusione. Non c'era nessun mare a Merano, c'era milioni di anni fa. No, no, io stavo parlando di leggende. Quando Paolo Valente parlava di leggende. Sì. In questo modo qua sembra che veramente ci sia un ritorno di No, io stavo parlando di una questione di leggende. Allora mi piaceva questa suggestione e ho detto una settimana fa, siccome il mio compito è quello di anche di offrire delle occasioni per leggere, ho detto una settimana fa abbiamo presentato un libro sulle leggende altoatesine, uno scrittore di origine meranese ha ricordato che tra le varie leggende c'è una che spiega in maniera favolistica dà una suggestione particolare del nome, di un'origine del nome di Merano, che lo vuole vedere collegato a Mera. Ecco, era una cosa un po' affascinante, perché pensare che Merano, è chiaro che all'epoca geologica in cui qui c'era il mare non c'era una forma di vita adeguata, vertebrata, probabilmente, ecco, c'erano solo degli invertebrati che sono fossilizzati sulle nostre Dolomiti, ecco. Quindi non c'è traccia, non è possibile che ci sia stata una trasmissione di questo tipo di ricordo. Era un po' un modo per ricordare e riagganciare quelle che sono delle leggende e queste magie che sopravvivono nelle leggende, come spesso succede, che sarebbe bello capire come mai c'è un... Ma non era niente di glottologico o storico. No, no, anche poi... Sì, certo, Valentini. Sì, è una leggenda che però è un fondamento proprio dal punto di vista geologico. Per quanto riguarda le morene riguardano soltanto il versante nord di Merano. Merano non c'entra niente con la parte morenica di quel territorio, tant'è che Maia Alta e Maia Bassa, che hanno semplicemente romani e attestati sui mondi, e si trovano su altri tipi di terreno, quindi diciamo che mare e morena con i maiani, magari poi cosa proponiamo piuttosto tardi. Il loro toponimo è Castro Maiense, effettivamente, e non ha nulla a che vedere. Ecco, scusate questa precisazione. No, grazie. No, ci mancherebbe, però io, avendo avuto modo di studiare e comunque sia leggere anche numerosi testi, do conferma a quello che ha detto la dottoressa Trevisan, perché spesso si fanno delle ipotesi, sì, su leggende, ma anche su fatti che non toccano anche minimamente il luogo. Però sono stati, vi è forse anche un'associazione, una mera associazione, e quindi ci facciamo anche un riferimento a testi, e forse è tutta una catena. Ma sì. Però è curioso, secondo me, curioso vedere anche come vengano correlati anche i concetti e come si fossilizzano nella storia, anche se spesso non hanno nulla a che vedere con ciò che è avvenuto in un determinato luogo. Così è. Penso che la procedura che è stata fatta in questa tesi, no, per dimostrare alcune, come sta facendo questa sera la dottoressa, per dimostrare le origini di alcuni nomi, appunto l'ha detto chiaramente, alcune ipotesi, perché sì, magari ce ne sono delle altre, mi è venuto in mente appunto quella di Merano, ma Castromaiense, ma ci sono anche altre, diciamo, ipotesi che sono emerse, che anche nei nostri così manuali in Alto Adige li troviamo, e sono tutte da prendere in considerazione, ma oggi mi si apre anche un mondo nuovo, ecco, non alcuni toponimi o alcune derivazioni effettivamente io non le ho mai sentite, quindi evidentemente la ricerca serve anche a questo, ad aggiornare una serie di studi. Quello che mi fa piacere è che vedo in questa tesi che effettivamente la documentazione che è riportata è una documentazione in molti casi che ho visto direttamente nell'archivio di Stato e sono pergamene del IX, X, XI secolo d.C. che sono conservate qui, e quindi questi toponimi ci sono attestati proprio correttamente come li ha riportati la dottoressa. Lei non li ha visti? No, mi sono attenuta a quanto ha scritto Pellegrini, quindi... Sì, presso l'archivio di Stato ci sono, perché? E sono tra l'altro pregevoli come appaiono e conservati molto bene. Proseguiamo allora. Sì. Eccoci ad Ortisei, St. Ulrichengroden, e qui vediamo come vi è una evoluzione differente tra i due nomi di luogo, perché Ortisei è attestato nel XIII secolo e viene fatto risalire alla parola latina urticetum, che sta a significare luogo delle ortiche, quindi anche qui vi è un'associazione ad un aspetto del territorio. Mentre, quindi questo per quanto riguarda il nome italiano, per quanto riguarda il nome tedesco, viene fatto risalire a St. Ulrich, ovvero al patrono di quella cittadina. Quindi appunto abbiamo un'evoluzione che non è affatto correlata. Qui anche vediamo come... abbiamo, anzi, nel IX secolo, prima l'attestazione della parola tedesca, che però viene fatta risalire ad un nome latino, Indius. Quindi vediamo come c'è sempre l'intrecciarsi tra mondo germanico e mondo italico. Quindi Inichen potrebbe derivare da India, in Tichingen, faccio anche io fatica a pronunciarlo, comunque deriva dal nome di persona latino Indius, che sta a significare sontuoso e autorevole. E questo nome si rinviene nel lemma provincia e Inticensis, quindi si tratta della provincia di Indius. Mentre San Candido è il patrono della collegiata, quindi questa è la stessa cosa che vale per Ortisei e St. Ulrich, si fa riferimento al santo venerato in questa determinata cittadina. Vipiteno, Sterzing, anche qui abbiamo una differente evoluzione, perché vipiteno deriverebbe dalla parola latina vipitenum, parola data ad un insediamento romano nell'area. Invece Sterzing deriva, come vale per altri nomi da prima visti, dal nome di persona germanico Starzo, attestato nel XII secolo, quindi si parla di Sterzen oppure di Sterzing, queste due parole stanno a significare terreno di Starzo, ovvero una proprietà di questo soggetto, quindi di Starzo. E in questo caso però vediamo come il termine vipitenum sia attestato prima, quindi nella documentazione abbiamo prima il termine latino e poi un'evoluzione in maniera differente del termine germanico. La bibliografia da me quindi con Sterzing abbiamo concluso l'analisi dei nostri nomi di luogo. Per quanto riguarda i libri da me analizzati, vedete come si tratta sostanzialmente di libri storici o di dizionari etimologici, perché ho dovuto analizzare le differenti radici di ogni toponimo. In particolar modo il libro di Tullio De Mauro, un noto linguista, storia della lingua italiana, storia linguistica dell'Italia Unita. In questo testo si nota proprio l'analisi che correla la disciplina linguistica con la disciplina storica, quindi questo testo mi è stato di notevole aiuto. Ma quello che mi è servito di più è stato il testo Toponomastica Italiana, 10.000 nomi di città, paesi, frazioni, regioni, contrade, fiumi, monti spiegati nella loro origine e storia, di Giovan Battista Pellegrini. Quindi è appunto da questo testo che ho tratto maggiori analisi. E per concludere, lascio qui una frase della mia conclusione del mio elaborato finale. La storia della toponomastica altoatesina è lo spaccato della storia di lingue e culture, storia di conflitti e di solidarietà che registra continui mutamenti ma rivela valori che restano indelebili nei millenni e che, aggiungo io, sono restati indelebili nei nomi di luogo che questa regione confinata dell'Italia, ma che pullula di risorse, presenta. Grazie. Grazie a voi. Ecco, forse diciamo che questo lavoro ci ha aperto anche così delle nuove prospettive, perché alcune etimologie così diciamo dei toponimi mi sono così suonati nuovi, devo dire la verità, ecco. Mi piace molto l'idea che si possa individuare anche una radice pre-indoeuropea nella nostra, così, nel nome della città di Bolzano, e vediamo un attimo se c'è qualcuno che ha voglia di fare un altro intervento, qualche domanda tra il pubblico. Parlare di pre-indoeuropeo, insomma. Sì, prego. Allora, la ringrazio per il suo apporto e non la contraddico assolutamente, però tutto ciò che io ho scritto è stato tratto da testi assolutamente fedeli che può vedere nella mia bibliografia, quindi è stato frutto non di un mio studio, ma studio di filologi, glottologi di notevole rilievo. Cito Pellegrini, ma ho citato anche Ascoli ed altri. Quindi ribadisco il fatto che si tratta di ipotesi, come lo ribadiva anche Pellegrini nella sua introduzione. Però tutto ciò che ho scritto non lo dice Silvia Ferrazzoli, ma lo dicono tutti gli studiosi che io ho elencato nella mia tesi. Quindi si tratta probabilmente anche nel suo caso di ipotesi che forniranno... Non parliamo di certezza quando parliamo di toponomastica, questo l'ho imparato studiando. Ora non so qual è il suo campo di studi, però il mio è stato la toponomastica per 8 mesi. E quindi... E io archeologo per 35 anni. Perfetto, perciò io penso si tratti anche di notevoli ipotesi da parte sua, indubbiamente. Però queste qui non sono state mie idee, ma cose dette da tutti... I nomi, guardi, li può vedere qui, quindi non... Tutto ciò che ho scritto non l'ho detto io. A me piace sempre vedere come la nostra conferenza sulla ricerca in Alto Adige riesca a stimolare l'uditorio. Veramente, guardate, non siamo in tanti qui questa sera, certo. Perché l'argomento non è uno dei più semplici. È molto sentito qua in Alto Adige e forse a volte anche troppo abusato, lasciatemi passare questo termine, ci sono dei momenti, è un divago, no? è un tema molto caldo, a volte si raffredda e poi viene riportato in auge. Dal punto di vista storico, come è stato così condotto questa sera dalla Silvia Ferrazzoli, che ha fatto una tesi di laurea molto recente, molto attuale, quindi si è basata su dei documenti, mi fa piacere vedere che c'è un dibattito, che ci sono delle posizioni anche differenti, perché questo è sempre un sintomo di interesse e di attenzione con cui si viene anche seguiti quando si espone una propria teoria. E per noi è anche interessante perché è un'occasione poi per anche l'uditorio di confrontarsi e vedere attraverso i libri che mettiamo a disposizione dove certo, sta. Certo. Forse questa è la verità, quali sono le teorie anche più innovative e quali possono essere ulteriori ipotesi dell'origine dei vari nomi. Questo è un invito che facciamo appunto a tornare a trovarci in biblioteca, sì. A continuare a fare un grande augurio a Silvia di continuare con il proprio lavoro, grazie, con l'entusiasmo, grazie. E con la cura che sta appunto con cui si occupa di queste cose. Scusi se la interrompo, però certo. Pensa se tra 20 anni un'altra ragazza o un ragazzo dovesse rifare una tesi sulla toponomastica dell'Alto Adige, ma penso di qualsiasi toponomastica, verranno sicuramente scritti libri nuovi e comunque sia verranno sempre formulate ulteriori ipotesi, perché certo. Viene sempre scoperto qualcosa di nuovo. Certo, la ricerca serve sì. Anche a questo. Sì. Sì. Ecco, continuate a seguirci, abbiamo proprio piacere di dare spazio ai giovani che si buttano così a capofitto in uno studio con tanto entusiasmo, con curiosità e si muovono in un terreno che non è loro, perché io devo anche dire Silvia Ferrazzoli viene da Roma, non è una nostra conterranea, passate questo termine, quindi anche tante cose, magari l'accento di qualche nome non le è familiare e anche tante così differenze linguistiche possono essere davvero così un elemento che la può non allontanare magari in certi momenti, però va dato atto che insomma il lavoro che ha fatto è stato un lavoro seguito dai relatori e soprattutto la ringrazio perché ha avuto la voglia e il piacere di esporlo questa sera qui sempre in mente che siamo ancora in biblioteca qui al Liceo Classico davanti a un pubblico che è una prova non facile, no? È verissimo, sì. Ecco. Grazie. C'è una signora che forse vuole fare. Prego. Ecco, c'è qualche domanda. Benissimo. Il funerale potrebbe essere un feriale da Merus? Beh, un'altra bella domanda, quindi si aggiunge un'ulteriore ipotesi, sì. Sì, è vero. Poi penso che chi vive in un posto, ora non so se lei è di Merano, però penso che alcune risposte ipotetiche, anzi risposte, possono sicuramente fornircele gli abitanti di un posto e coloro che conoscono la storia di quel posto, quindi potrebbe essere, sì. C'era un'altra domanda? Stefano. Ah, no. Ok. Va bene. Grazie, grazie a tutti voi, grazie a tutti voi.